Elba, 22 agosto 1967. Care Eleuterio, sono qui con il mare a destra e l'albergo a sinistra, il che vuol dire che sono sdraiata per in là, perché se fossi sdraiata per in qua, avrei il mare a sinistra e l'albergo a destra. Sono sdraiata al sole e ho le orecchie piene delle cose irrepetibili che mi hai detto. Il bagnino passeggia davanti alle cabine e io penso che il bagnino non è altro che il secondino degli abiti da città. Li chiude a chiave nelle cabine e dà la libertà provvisoria ai bikini. Penso anche che sei un cretino nevrastenico. Non si fa un carnevale di Viareggio all'Elba solo per un po' di musica leggera. Sempre tua. Roma, 23 agosto 1967. Inusitata sempre mia. Il fatto che tu stia sdraiata è già una cosa. Solo che dovresti avere grisantemi a destra e cipressi a sinistra. Ma nella vita i sogni restano sogni. Carnevale di Viareggio all'Elba, eh? Ti riferisci forse al fatto che ho dipinto di rosso alcune tue amiche e di azzurro te? Forse ho sbagliato. Forse era meglio dipingere tutto di nero, con il catrame. Hai ragione, sono un cretino. Non si dipingono le signore per un po' di musica leggera, anche se tale musica è magistralmente eseguita da Mina, i Rox e Armando Trovajoli a pianoforte. Non si dipingono, si incollano sulla moquette, poi si passeggia. Sabato, quando verrò, sistemeremo la faccenda. Eleuterio. Ho scritto. La signora della porta accanto mi ha lasciato in consegna quel mucchio di pelo che chiama cane. Qual è la parte giusta per dargli il biscotto? Elba, 24 agosto 1967. Care Eleuterio, gattaccetto. Gattaccio, sì, ma con riguardo. Sono sulla spiaggia e ti penso, perché ho voglia di essere triste. Una ragazza biondissima è su una sdraio. E io penso che quella sdraio lì in fondo non è altro che il capo ufficio di una dattilografa marina. Non si dipingono le signore per qualche canzone cantata da Mine e dai Rox, tanto per passare una serata. La parte giusta del cane della signora accanto è quella da dove mangia. Sempre tua. Roma, 25 agosto 1967. Indistruttibile sempre mia. Parli di canzoni cantate da Mina e dai Rox, senza entrare in particolari. Che cos'è? Non hai il coraggio delle tue azioni? Sabato, quando verrò, metterò a fuoco la cosa. E mi dispiace che mettere a fuoco sia un modo di dire fotografico e non incendiario. Hai dimenticato tutto, eh? Eleuterio. Ho scritto. Grazie per l'aiuto che mi dai circa il cane della signora accanto. Per capire da dove mangia, ho dovuto pazientemente aspettare che camminasse. Elba, 26 agosto 1967. Care Eleuterio, micione. Il mare che ho davanti stamattina ha colori particolari. Due pescatori subacquei non fanno che tuffarsi e rituffarsi. E io penso che un pescatore subacqueo non è altro che un alpinista che si arrampica al contrario. Non ho dimenticato i particolari, Eleuterio. Anzi, ricordo tutto come se vedessi una fotografia. Eravamo in sala da pranzo, guardavamo fuori e... Guarda, Eleuterio, il mare. Per forza. Non si vede altro da questa maledetta finestra. Non è vero, si vede anche il cielo, ma adesso non si vede perché è buio. Però si riconosce dalla luna. E tu ti riconosci dai discorsi, cretini. Vuoto. Sei vuoto, Eleuterio. Il mare in fondo è il cielo dei pesci luna. Sì, cara, sì, sì. Ma quando si mangia? Subito, Eleuterio, perché dopo faremo un po' di musica. No, non mi dire che tu e le tue inavvicinabili amiche avete organizzato un concerto. E noi sarebbe cattiveria. E chi canta il bacio di Arditi? Si tratta di musica leggera, Eleuterio. Quando faccio le cose le faccio per bene. Ho invitato Mina, i Rox e il maestro Trovajoli. Non mi dire che hanno accettato il tuo invito. Certo che lo hanno accettato. Sono professionisti seri. E quando ho mandato loro il contratto e l'anticipo, sono partiti. Il contratto? Che contratto? Che anticipo? Scusa, chiariscimi un po' le idee. Eleuterio, quando si scritturano i cantanti, si manda l'anticipo e il contratto per la firma. E tu hai scritturato Mina, i Rox e Trovajoli? No, li ha scritturati la signora De Rossi. Ma l'impresaria sono io. E l'anticipo l'ho dato con l'assegno che mi hai lasciato per i casi d'emergenza. Questo lo era, un caso d'emergenza. Eleuterio, non sventolare le orecchie, lo sai che mi disturba. Tu sei l'impresaria, eh? E come rientrerai dei soldi che costano Mina e gli altri? Con il prezzo dei biglietti d'ingresso? No, l'ingresso è gratuito. Quando si offre qualche cosa, Eleuterio, non ci si fa rimborsare. No, non ci si fa rimborsare. Ci si fa internare. Tu in clinica e io al manicomio criminale. Hai mai visto L'imitazione del matto? No, e non la voglio vedere. Lascia stare quella vernice, non è nostra, Eleuterio. E anche il pennello. Non è un pennello, è una pennellessa. E fa le strisce in maniera perfetta. Guarda! Ferma, Eleuterio, la vernice è vernicia. Aiuto! L'azzurro non mi dona. Concierge, aiuto! Dove sono le altre? Sì, quelle, le amiche. Coraggio! Diamo un tono di colore alla monotonia di questo maledettissimo albergo. Aiuto, chef! Benino! Ricordo tutto con molta precisione. Hai fatto il diavolo a quattro trasformando le mie amiche in una tribù di pelle rossa. Ma quando arriverai sabato, io farò finta di niente. Ti aspetterò sulla porta, sorridente, affettuosa e... Ciao. Ciao. Tu sia il benvenuto, Eleuterio, anche a nome del direttore dell'albergo. Ti aspettava per sistemare la faccenda del soggiorno dei cantanti. Ho offerto io, ma lui ha anticipato anche i soldi dei fiori per Mina e degli accendini d'oro per gli uomini.